La televisione siriana trasmette la serie televisiva Diaspora, storia del sionismo e di come gli ebrei pianificano la conquista del mondo basata su di un riconosciuto falso storico, i protocolli di Sion. L'inimicizia nei confronti di Israele ha una dimensione politica piuttosto che religiosa. Si rivolge contro l'occupazione, la pressione politica. Eventi come la costruzione del recinto muro, di fatto si tratta di entrambe le cose, o l'omicidio di Yassin non fanno altro che gettare benzina sul fuoco. Parlare di antisemitismo nei paesi arabi è difficile. Il termine significa inimicizia nei confronti della razza semita, la cui maggioranza è araba. La storia si prende piuttosto alla leggera. Può capitare che ad un businessman tedesco venga detto «Hitler era assolutamente a posto, peccato che con gli ebrei abbia smesso presto». Chi non fosse d'accordo potrebbe perdere la commessa. Spesso è educato a tacere. Anche l'Europa, però, non sembra essere in grado di combattere le nuove forme d'antisemitismo. Ferma restando l'iniziale matrice dell'estrema destra, cui ogni tanto si aggregano gruppi islamisti o di sinistra, la nuova frontiera è quella che si fregia dell'etichetta antirazzista. Portata dai gruppi musulmani nelle comunità cittadine europee, contrabbanda con la critica e il rifiuto della politica israeliana nei territori palestinesi occupati, il rifiuto del diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Denunciando come razzista e colonialista tutti gli ebrei, senza alcuna distinzione tra israeliano ed ebreo o tra governo israeliano e opposizione, si tratta solo di sionisti e in quanto tali razzisti. Centrale comunque nel dibattito sull'antisemitismo è la domanda: dov'è la frontiera tra l'antisemitismo e critica legittima al duro regime imposto da Sharon? La filosofa americana Judith Butler afferma che se l'accusa di antisemitismo viene utilizzata per difendere la politica di occupazione israeliana, è la proprietà espressiva della parola a perdere ogni valenza, soprattutto in quei casi dove sarebbe giustificata. Per parlare di antisemitismo occorre un utilizzo responsabile di fatti, parole e proporzioni. La tendenza, per esempio, a mettere in un unico calderone il colonialismo e la fondazione dello Stato di Israele, sia pure nata nei paesi arabi, si appoggia ai sensi di colpa storici europei, attecchendo proprio nella sinistra e nell'altermondialismo. Le opulente nazioni occidentali sarebbero all'origine di ogni malformazione dello sviluppo delle regioni del terzo mondo, compreso quindi il fanatismo e il conseguente terrorismo. Se queste premesse sono condivisibili, la conclusione che individua nell'esistenza di Israele l'estrema forma del colonialismo occidentale pone Israele al centro di tutta la conflittualità mondiale del post 11 settembre, senza lasciare alcun margine di contrattazione ad una soluzione pacifica del conflitto. Lo Stato ebraico e l'internazionale lobby sionista diventano avamposti di combattimento di una decadenza che distrugge la società, ricollegandosi così all'antisemitismo europeo di Goebbels, che individuava negli ebrei la causa della decadenza del mondo intero. Punto debole dell'integrazione europea pare essere proprio la tolleranza, non tanto delle religioni in sé, quanto delle regole sociali che le diverse religioni portano. La legislazione contro i simboli religiosi in Francia è un tardo riconoscimento dei limiti pratici della tolleranza laica. La tradizione storica dell'antisemitismo europeo e la diffidenza nei confronti dei musulmani si toccano. Gli extracomunitari oggi, come gli ebrei dell'Ottocento, vengono recepiti in Europa come un fattore di impedimento all'unità della nazione, di stravolgimento delle abitudini culturali. L'identificazione del nemico passa per l'assimilazione. Gli europei assimilano Bush a Hitler, gli italiani Berlusconi a Mussolini, processi che, se nelle intenzioni di chi li esprime vorrebbero spiegare la gravità della situazione, ottengono in realtà anche l'effetto opposto, di giustificazione della storia e di rendere accettabile il passato. Così, dal Bush è come Hitler, al dire che Hitler in fondo non era male, con gli ebrei si è fermato troppo presto, il passo è estremamente breve. Soprattutto perché a compierlo non è il medesimo soggetto politico. Da un lato c'è l'autorevolezza di un quotidiano, dall'altro quella del cliente. In mezzo, recipienti di entrambi i discorsi, il nostro businessman europeo, che oppone il suo educato silenzio. Se a questo estremo si sostituisce un ipotetico Hitler che commissiona macchine per schede forate per contare la popolazione dei lager, o che ci sia il vicino di casa, l'ospite del pranzo pasquale, il ragazzino che scrive Juden Raus in metropolitana, l'educato silenzio può essere lo stesso, sottovalutazione del fenomeno e della tolleranza in nome di ottimi e ragionevolissimi motivi. La concorrenza venderebbe comunque, sono ragazzi, poveretto, ma è tanto per bene. Tito Gandini, reporter Associati per Amisnet Radio.